di Simone Spezia. Sulla legge elettorale ancora scontro sulle quote rosa nelle liste, lavori fermi alla Camera, secondo Forza Italia l'ipotesi è incostituzionale. 48 ore in attesa delle prime vere mosse del governo Renzi, il presidente del Consiglio promette il taglio delle tasse nel Consiglio dei Ministri di mercoledì e attacca i sindacati, ospite tra poco il leader della CISL. A Sebastopoli, in Crimea, il russo diventa lingua ufficiale. Telefonata molto dura tra Merkel e Putin, la cancelliera tedesca al presidente russo. Il referendum previsto per il 16 marzo è illegittimo. Senza sud, dalla crisi non si esce. Parte oggi il viaggio di Radio 24 tra le storie e le eccellenze delle città del Mezzogiorno. Iniziamo da Napoli. Compra una pagina sul Corriere della Sera per l'anniversario di matrimonio, la mossa di un romantico o un'iniziativa di marketing? Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti che se volete potete commentare al 349-238-6666, se volete ci potete anche scrivere effettogiorno@radio24.it. Iniziamo dalla legge elettorale, c'è uno scontro che sta continuando ad andare avanti in realtà sulle quote rosa nelle liste, poi vedremo se avremo spazio di tornarne a parlare più avanti, intanto sentiamo la cronaca. Elisabetta Fiorito, eccoci, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno. Non c'è accordo per le quote rosa qui a Montecitorio, la discussione sull'Italicum viene rinviata ancora una volta in aula, è muro contro muro sull'emendamento Agostini e l'esame viene rinviato alle 14.30, difficile quindi che il provvedimento verrà licenziato oggi ma più probabile domani. Forza Italia è contraria ad apporre alcuna modifica all'accordo Renzi-Berlusconi, ma intanto 90 deputate sono vestite di bianco e molte anche quelle di Forza Italia. Il via libera arriverà quindi domani e non oggi, ma bisogna sciogliere ancora vari nodi, il cosiddetto salva Lega, le candidature multiple, la delega al governo per la formazione dei collegi. Noi dobbiamo ottenere una posizione conforme all'accordo, il voto è poi affidato ai singoli parlamentari, lo ha detto il presidente della Commissione Affari Costituzionali Sisto di Forza Italia proprio da noi a Radio 24. Emendamenti peraltro che violano dei precetti costituzionali, come dimostrano due sentenze della Corte Costituzionale. Nessuno, insiste ancora Sisto, mi ha chiamato stanotte, non mi risultano cambiamenti rispetto a quanto deciso nell'accordo fatto col PD. Quindi Simone, una posizione molto dura quella di Forza Italia, come hai sentito dal Presidente della Commissione Affari Costituzionali. A te. Grazie Elisabetta Fiorito, vedremo come evolverà la situazione politica da questo punto di vista, abbiamo conferma che tra poco parleremo di tutto questo anche con una deputata del Partito Democratico alla quale sottoporremo anche delle cifre piuttosto interessanti sulle percentuali di donne parlamentari soprattutto nei vari paesi, chiamiamoli così, occidentali. Veniamo però alle questioni economiche che sono quelle sulle quali in settimana si concentrerà il governo e quelle sulle quali si concentra in realtà la attenzione di tutti noi. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Palazzo Chigi al lavoro in stretto contatto con il Ministero dell'Economia per la messa a punto del piano taglia tasse che sarà varato mercoledì in Consiglio dei Ministri. Il Premier Renzi ne ha anticipato le linee guida e gli obiettivi. Interverremo, ha detto, pensando alle famiglie e alle imprese che hanno problemi reali. Al momento non si tratta di calarsi in un derby da stadio, ha fatto capire Renzi in polemica con le parti sociali tra IRPEF ed IRAP. Abbassare le imposte alle imprese è una cosa che cercheremo comunque di fare, ha aggiunto ancora Renzi, tentando allo stesso tempo di dare a chi guadagna 1.500 euro al mese e non ce la fa qualche decina di euro in più, in modo che quei 100 euro possano essere rimessi in circolo per i consumi. Si tratta in totale, lo ricordiamo, di 10 miliardi di taglio delle tasse su chi lavora e produce. Va detto che la sostenibilità sui conti pubblici deve essere tenuta però a riferimento e di questo si farà garante il ministro dell'economia Padoan all'Eurogruppo. Il messaggio di via 20 settembre a Bruxelles non cambia, senza nuova crescita anche i conti pubblici vanno in sofferenza. Altri dossier sul tavolo del Consiglio dei Ministri di mercoledì, Jobs Act, piano casa ed edilizia scolastica. È tutto. Tra l'altro è di ieri, come si diceva, il duro attacco di Matteo Renzi ai sindacati sulle prossime mosse economiche del governo. Dice tra le altre cose, avremo i sindacati contro, ce ne faremo una ragione di questo. Parleremo tra poco con Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL. Di questo ci parla oggi Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. L'attacco l'attacco esplicito del Premier Renzi alla CGIL e la volontà dichiarata di farla finita con la cosiddetta concertazione possono essere due cose: o il tentativo poco meditato di un uomo di governo già in difficoltà per recuperare credito mediatico, oppure, ed è l'ipotesi a cui si vuole credere, una svolta storica, la fine del potere di veto paralizzante che troppo spesso i sindacati, in modo specifico il sindacato della sinistra, la CGIL appunto, hanno usato per frenare e spesso affossare le riforme. Se è così, vuol dire che Renzi ha davvero messo in gioco il suo futuro politico. Al di là del merito delle scelte economiche che saranno annunciate in settimana, la rottura dei vecchi rituali fra governo e sindacato rimescola le carte, fa crollare gli steccati post-ideologici ed è un tentativo di uscire dalla paralisi decisionale. È un messaggio alla CGIL perché si rinnovi dopo tanti errori ed è un avvertimento allo stesso partito di Renzi, al PD, soprattutto alla minoranza interna che al sindacato è ancora vicina. Una buona notizia economica che arriva dall'Istat: la produzione industriale in gennaio è tornata a salire, il balzo è stato dell'1% su dicembre, come non si registrava dall'agosto del 2011. C'è una crescita anche su base annua, con un rialzo dell'1,4%, il dato naturalmente è corretto per effetti di calendario. E un'altra buona notizia è che ci sono imprese che assumono, una di queste è Salini Impregilo, lo ha spiegato l'amministratore delegato Pietro Salini, intervenuto questa mattina a Mix 24. Ascoltiamo. In Italia il problema della disoccupazione giovanile è un problema drammatico. Voi assumete giovani o no? Ma noi abbiamo un programma di assumere 15.000 persone nel piano industriale, quindi nei prossimi 4 anni. 15.000 persone? Sì. Vogliamo fare una bella crescita. L'azienda tende a un raddoppio della sua dimensione in termini strutturali e quindi necessita di un forte programma di assunzione. Nei prossimi 4 anni? Sì, stiamo cercando quindi adesso molti giovani, ovviamente non solo italiani, ma una buona parte italiani, e stiamo facendo adesso una serie di programmi insieme alle università. Ma per che tipo formare di giovani cercate? Ingegneri? Cerchiamo o di tutto? Principalmente giovani ingegneri, giovani laureati in economia, geometri. E veniamo alle cronache dall'estero, andando in Ucraina, o meglio in Crimea, dove si trova l'inviata del Sole 24 Ore a Simferopoli, Antonella Scott. Buongiorno Antonella. Buongiorno. Qual è la situazione questa mattina? La Crimea attende il referendum di domenica in un'atmosfera davvero di crescente tensione, almeno dal punto di vista della minoranza tartara e degli ucraini che non riconoscono legittimità alla votazione. Qui a Simferopoli, che è il capoluogo della penisola, che forse solo per pochi giorni ancora sarà Repubblica Autonoma, parte dell'Ucraina, il Parlamento e la sede del governo sono presidiati da pattuglie di cosacchi, e un numero in città in aumento perché stanno arrivando da diverse parti in adunata, da diverse parti della Russia, per aggiungersi ai cosacchi di Crimea e a quelli che qui chiamano i turisti di Putin, cioè volontari venuti a prendere parte a quella che loro dicono sarà la battaglia di Crimea. Si ingrossano anche le file del nuovo esercito di Crimea. Prima ancora di aspettare l'esito del referendum, membri della polizia locale, militanti vari, stanno prestando giuramento e mostrano le uniformi, gli stemmi appena cuciti. Sono ottimisti su un futuro sussidiato da Mosca, parlano di transizione pacifica, si dicono aperti ad accettare nella futura Crimea russa anche gli ucraini e la loro lingua. Ma dall'altra parte cresce invece la preoccupazione, i militari fedeli a Kiev restano assediati nelle loro caserme, interrogandosi su quello che succederà loro da domenica. E aspettano anche i tartari, a Bakhchisarai, il cuore della Crimea, dei tartari deportati da Stalin, tornati solo 20 anni fa. Dicono: non siamo tornati per vivere così, e per ora si limitano a vegliare attorno ai loro villaggi, a fare guardia, ma assicurano che se sarà necessario saranno pronti a combattere. Senti Antonella, dal territorio, mentre ci arrivano notizie sul fronte della diplomazia internazionale, sappiamo di una telefonata molto dura tra Angela Merkel e Vladimir Putin, nella quale Berlino dice siamo pronti alle sanzioni e dice il referendum di domenica è illegittimo, vorrei capire da te il livello di tensione sul territorio e che rischio c'è che esploda ancora qualche forma di violenza. Il rischio è molto alto, appunto per il momento C'è molta tensione, però molto probabilmente fino a domenica, diciamo, l'ordine è di non provocare troppo la popolazione contraria, la parte della popolazione contraria a questo referendum. Il problema è che è già stato detto da questo nuovo governo, autoproclamato governo di Crimea, che a partire da domenica, naturalmente tutti danno per scontato che domenica passerà il sì all'annessione alla Russia, questo lo danno per scontato anche quelli che non sono d'accordo, ma perché dicono che il risultato è già stato deciso e che quindi saranno risultati truccati. In ogni caso, a partire da domenica, da lunedì, i militari ucraini verranno considerati degli invasori, degli occupanti, e quindi se al momento loro restano assediati per lo più nelle loro caserme e a parte dei casi, alcuni casi di alcuni di scontri che per ora non sono stati ancora scontri a livello gravissimo, ecco, da lunedì nessuno può più garantire che la sicurezza della situazione. In che modo saranno costretti. Grazie Antonella Scott, naturalmente torneremo ad aggiornarci con te e a farci raccontare la situazione. Sempre dall'estero arriva la notizia di questa mattina che una forte scossa di terremoto è stata registrata nel Pacifico, a largo delle coste della California. Quanto sembra non ci sono danni, si temeva uno tsunami, ma non è stato diramato alcun allarme. L'epicentro è stato localizzato 77 km a nord-ovest della città di Ferndale, a una profondità di 7 km. La cronaca italiana ci parla della vicenda di Lecco, ci porta a tornare sulla vicenda di Lecco, perché è rientrato questa notte con un volo da Tirana l'operaio albanese, padre delle tre bambine uccise dalla moglie a Lecco, e verrà sentito oggi dai carabinieri. Il gesto di questa donna si aggiunge a quello di un lungo elenco di madri e di padri che hanno dato la morte ai propri figli. Ma cosa scatena questo tipo di furia omicida? Adriana Fracchia ne ha parlato con Claudio Mencacci, che è direttore del Dipartimento di Neuroscienze del Fatebene Fratelli di Milano e presidente della Società Italiana di Psichiatria. Sentiamo. Di fronte a un paese che vede il numero degli omicidi in generale diminuire come non lo era mai stato negli ultimi 150 anni, vediamo che tutto quello che invece riguarda femminicidio e famiglia non solo permane, ma è in drammatica crescita. Questo sta a indicare quanto sia profondo la sofferenza all'interno dei nuclei familiari, ma soprattutto di come, ancora una volta, si ripresentano le condizioni per le quali i figli fanno le spese dei conflitti tra genitori. Il dramma di Lecco, piuttosto che altri che si verificano, hanno sempre e spesso come movens una separazione, un abbandono di una delle figure che viene ritenuta dominante. E questo fa attivare quello che in diversi tempi è stato chiamato con più sinonimi, sicuramente più frequente quando sono le madri che uccidono i figli, è la cosiddetta sindrome di Medea. Che cosa accade? Beh, accade che di fronte a un distacco o quello che viene ritenuto una separazione ormai definitiva è tale e così potente la rabbia, l'aggressività, che si riversa verso qualcosa che è appartenuto alla coppia. È chiaro che qui i figli sono vissuti come uno strumento di possesso e soprattutto in questo senso di vendetta. Dobbiamo anche considerare che questa chiave di lettura può trovare anche altre condizioni, che sono quelle di immergersi progressivamente in un delirio di rovina. All'interno di questa condizione di rovina, l'unica via di uscita sembra essere quello di una condizione per le quali tutte le persone rimangono insieme, ma non nella condizione di vita, ma in una auspicato al di là, dove la condizione viene ritenuta migliore di quella del presente. Così dunque su questa vicenda, noi veniamo a parlare di Passione Sud. Cos'è Passione Sud? È il viaggio che noi, che Radio 24 ha deciso di fare nelle zone d'Italia che ancora più del resto del paese hanno sofferto e soffrono la crisi. Un viaggio nelle principali città del Mezzogiorno, dove sono tante le difficoltà ma anche le potenzialità, e oggi in realtà è di queste che vi parliamo. Siamo consapevoli che non vi sarà una vera ripresa del paese senza una ripresa del Sud. Oggi a Napoli. Dice ora Daniela Ciancio che le sue giacche da Oscar non potevano essere realizzate che sotto al Vesuvio, ma per riuscire a portare a Los Angeles il casual chic tutto partenopeo di Jep Gambardella, la costumista di Paolo Sorrentino, la sua Napoli l'ha lasciata tempo fa. Ma è qui che ora si gode questo momento di euforia, quando tutti vogliono le maniche a mappina. È un tipo di giacca che può tranquillamente essere ripiegata senza poi diventare una cosiddetta mappina, cioè di essere sgualcita. E permette al protagonista della grande bellezza di essere sempre in ordine, con le sue giacche gialle, blu, rosa, creature dell'alta sartoria partenopea che nella moda maschile detta legge nel mondo. Ma io, sussurra Mara, la costumista premio Oscar, per essere riconosciuta sono dovuta andare via. Non avevo voglia di fermarmi solo perché c'ero nata e poi sentirmi limitata, non ne potevo più, di una dimensione più piccola. A Napoli invece è rimasto Mauro Ascione, quinta generazione di lavorazione del corallo. Spalle al San Carlo, guarda la Galleria Umberto, dove ha negozio e museo, e si chiede perché non può essere tenuta come quella di Milano. Con altri imprenditori che sono qui nella zona abbiamo richiesto ed ottenuto tutta una serie di servizi all'interno della galleria, come una maggiore sorveglianza, una maggiore pulizia. Arrivano dei turisti stranieri e trovano barboni che dormono. Se il pubblico è credibile, la parte privata è pronta a sostenere tutte le iniziative del pubblico. Ma nonostante tutto, entrambi sono convinti che la loro creatività in fondo nasca anche da questa lotta quotidiana. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ancora scontro sulla legge elettorale, il tema è sempre quello delle quote rosa nelle liste, i lavori sono fermi alla Camera, si riprende alle 2:30. Secondo Forza Italia l'ipotesi è incostituzionale. 48 ore di attesa per avere le prime mosse del governo Renzi, quelle vere, quelle sull'economia. Il Presidente del Consiglio promette il taglio delle tasse e attacca i sindacati. A Sebastopoli, in Crimea, il russo diventa lingua ufficiale. C'è stata una telefonata molto dura tra Merkel e Putin. La cancelliera tedesca al presidente russo ha detto che il referendum previsto per il 16 marzo è illegittimo. Saluto Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL. Buongiorno. Buongiorno. Bentornato ai nostri microfoni. Allora, la frase chiave è: avremo i sindacati contro? Ce ne faremo una ragione. Parole di Matteo Renzi. Che cosa risponde? Che lui fa una domanda e poi si dà anche una risposta da solo. La verità è che ci sono due aspetti che lo portano a dire cose che un Presidente del Consiglio dovrebbe dire con più cautela. Uno è che è stato costretto a fare, secondo me, costretto a fare un'operazione sull'IRPEF, che è proprio la richiesta che abbiamo fatto noi. Almeno la CISL da molto tempo insiste su questo e lo deve fare per forza, altrimenti è lui che va sotto. Quindi, lei dice, Bonanni lei dice ci dà addosso ma poi ci dà ragione. Ci dà ragione perché non può fare a meno, perché lui ha campagna elettorale e certamente non vuole registrare la sconfitta. Siccome la gente è esasperata perché paga davvero tante tasse e lui ha abbondato molto in promesse, esattamente come abbonda molto in possibilità di litigi, a quel punto è costretto a fare questa scelta e nel contempo fa e minaccia le questioni sindacali. In verità, dentro le vicende dei sindacali, sono convinto che lui fa così anche perché c'è una ruggine con la CGIL e tutta la questione dentro la sinistra italiana è davvero spiacevole questa condizione. Lui farebbe bene avere un profilo più cauto, deve provocare la coesione e non certamente la divisione del paese. Un Presidente del Consiglio, al di là di tutto, deve fare questo. E deve rispettare i soggetti sociali, ma li deve rispettare, diversamente non sarà rispettato lui, non sarà rispettata la politica che fa lui. Lei dice in sostanza che con quelle frasi Renzi sostanzialmente non parla a voi, alla UIL, in realtà parla alla CGIL, e probabilmente ha anche ragione. E questo progressivo sganciamento del PD dalla CGIL che Renzi sembra voler rappresentare, le sembra una buona cosa? Lui può fare tutte le scelte, però la cautela e la sobrietà sono d'obbligo. Poi se lui fa discorsi di riforma, io non aspetto altro. Io sono stato perseguitato per essere stato un riformista del sindacato, allora sfidi imprenditori e sindacati per esempio alle riforme, a quel punto si vede la differenza, e non che si spara nel mucchio o addirittura si ingaggia una storia con un'organizzazione come la CGIL, perché sbaglia, al di là delle posizioni che ognuno può avere, sbaglia perché il ruolo che svolge lui non deve portarlo a fare questo. Come giudica questa vicinanza, se non ideale, quantomeno come dire, da quel che abbiamo capito ieri, sentimentale con Maurizio Landini e con la FIOM? Fa parte della stessa discussione. Lui fa notare che parla con Landini per fare un dispetto a Camusso. Ecco perché, e non credo di sbagliarmi, ecco perché questa vicenda è un po' inquietante. È inquietante perché con i problemi che abbiamo, con le preoccupazioni che abbiamo tutti, più che dividerci dovremmo cooperare tutti. E il primo che deve dare questi segnali è il Presidente del Consiglio. Se ci si mette pure lui a provocare le risse, siamo freschi in questo paese. Senta una cosa, la CGIL tra l'altro già minaccia, se non uno sciopero, dice siamo pronti alla mobilitazione. Voi che cosa dite? No, io sono convinto che Renzi farà quella scelta, e per me va benissimo. È una scelta che noi abbiamo preparato in lungo tempo di rivendicazioni, quindi non capisco perché dovremmo fare scioperi. Quindi insomma, diciamo, non c'è un'ipotesi di associarsi appunto all'idea di una mobilitazione o di uno sciopero. Bene, io la ringrazio, grazie a Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, per essere stato con noi, buona giornata. Grazie, buongiorno. E noi adesso vogliamo parlare, facciamo una cosa, allora alleggeriamo un attimo questa parte e prepariamo, lo chiedo a Filippo Aureggi che è in regia, il racconto che ci ha fatto il nostro Dario Ceccarelli di una storia che si trova oggi nelle pagine interne di un quotidiano nazionale, del Corriere della Sera, via. Letizia, amore mio, te lo ricordi? Era il 10 marzo e c'era il sole. Comincia così una struggente lettera d'amore pubblicata a pagamento sul Corriere della Sera di oggi da un marito di quelli che non si trovano più o non si sono mai trovati. Una pagina intera scritta a mano con un bel cuore disegnato ad acquarello per festeggiare l'anniversario. Il marito, che si chiama Olimpio, un nome un po' sospetto, diciamolo, dopo una straordinaria cascata di complimenti si congeda con un post scriptum. Per sicurezza ti va se per cena andiamo al ristorante? Come dolce, dicono le ottimiste rapite da tanto amore. Finalmente un gentiluomo, ma dove ha messo lo stampino? Ma avanza anche il partito dei cinici, che dicono sì, buonanotte, l'invito al ristorante, le tue ciglia lunghissime, la tua splendida voce. Ma figurati, dove l'han pescato questo cascamorto? Ragazzi, sveglia, questa è una campagna pubblicitaria, non fatevi infinocchiare. Insomma, non crediamo più a niente. Magari questo Olimpio è l'ultimo dei romantici, ma il nostro cuore di pietra, indurito da troppa apposta per te, dice di no, che quel 10 marzo non c'era il sole. Anzi, come direbbe Snoopy, era una notte buia e tempestosa. Buona solo per gli agguati. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo alle cose serie, è un brutto fatto di cronaca, una storia che avete sentito anche nei nostri giornali radio, una bambina di 3 anni che è stata travolta e uccisa mentre sciava sulle piste di Gressoney in Valle d'Aosta. La ragazzina, la bambina in realtà, è stata investita mentre faceva lezioni con il maestro e altri coetanei, su di lei è piombato uno sciatore di 17 anni. Allora, ne vogliamo parlare di questo con Paolo De Chiesa, che è un ex sciatore italiano, ha fatto parte della Valanga Azzurra ed è adesso un giornalista, un commentatore sportivo per la RAI. Buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Vorremmo soffermarci su che cosa è successo negli ultimi 10 anni nello sci, naturalmente non nello sci quello che si pratica nei campionati del mondo o alle Olimpiadi, ma in quello che vediamo quotidianamente sulle piste, perché in realtà si è tutto velocizzato moltissimo. Sì, allora, per essere molto sintetici e brevi, praticamente nell'era del carving, cioè parliamo di sciancratura dello sci, questo sci nuovo, moderno, permette di andare veloce ed è divertente sciare con questo sci su piste perfettamente lisce. Cosa succede? Che sulle piste lisce anche chi non è bravo può comunque andare facilmente dopo 10 giorni che scia a 60 all'ora. Senza il controllo dello sci può succedere di tutto, ma riferendoci a quello che è successo, alla tragedia di Gressoney, è tutt'altra storia, nel senso che non si tratta di una persona che ha perso il controllo, si tratta di un ragazzo che in quel momento chissà dove aveva la testa, perché comunque ha fatto questo, è passato su un dosso ad alta velocità, credo, ma non so come sia andata la dinamica di questo incidente terribile. È arrivato a grande velocità su questo dosso, dietro c'era un gruppo di bambini con il maestro che sciavano, e ne ha investito uno, ha investito questa bimba uccidendolo. Noi tra l'altro, insomma, stiamo parlando con te, ti abbiamo raggiunto mentre sei sulle piste. Sulle piste del Tarvisio, tra l'altro, però voglio capire se questa modifica degli sci che abbiamo visto tutti e che stiamo vivendo non dia alla fine un'eccessiva sicurezza, no, alle persone, per cui magari si consentono delle velocità e delle manovre che non sono in grado di controllare perfettamente. Allora, guarda, io vi dico quello che penso, quello che ho sempre detto al riguardo. C'è stata una legge ben precisa, una specie di codice non della strada ma della pista, che non è mai stata fatta rispettare. Io adesso, guarda, sono a Tarvisio perché ieri c'era una gara con il Scagola di Coppa del Mondo, ero lì a commentare per la Rai, ho sciato a Sella Nevea, questi posti stupendi in Friuli. Guarda, a Sella Nevea, a Tarvisio ci sono i poliziotti in pista. Ho visto personalmente i poliziotti fermare gente che non andava neanche troppo forte, però c'è un controllo totale, assoluto. Quindi se ci basterebbe, intanto bisognerebbe conoscere questo codice, sì, da bambini bisogna, quando si va in pista bisogna sapere che cosa bisogna fare, come bisogna comportarsi, dico partendo dai bambini. Poi da lì in avanti ci vuole il controllo, perché è inutile dire che sulla strada devi andare a 120, se non metti il levatore di velocità e non metti le multe, la gente continua ad andare a 220, giusto? Quindi ci vuole la repressione, innanzitutto ci vuole informazione, ci vuole il buon senso, che non basta, per cui ci vuole il controllo e la repressione. Ma non è che mettere i carving ai piedi di qualcuno è come, non lo so, dare in mano a un diciottenne una macchina con 2500-3000 di cilindrata, troppo veloce. Guarda, ma parliamoci chiaro, le piste non è questione di carri, ormai le piste sono preparate perfettamente. Se tu metti anche uno sci che usavamo 20 anni fa per andare in pista, puoi andare a 100 all'ora lo stesso, non è che il carri va a 100 all'ora e l'altro sci no. Il problema è che questi carving sono divertenti sulle piste lisce. Le piste lisce consentono velocità che mandano la gente fuori controllo, quelli che non sono bravi. Per cui, guarda, riparto dal codice che deve essere rispettato e fatto rispettare. Dopodiché, col buon senso, non succede niente, perché questi sci sono facilissimi anche per il controllo a velocità bassa. Lo sci carving è molto più facile da guidare, da maneggiare, da manipolare rispetto al vecchio sci, quindi è molto più controllabile. Certo che se aveva 80 all'ora e non sei capace, può succedere di tutto. Quindi, prima di tutto, grano salis, buon senso e questa benedetta legge, si faccia qualcosa. Non è che tutte le volte dobbiamo sperare che si faccia qualcosa aspettando che muoia una bambina di 3 anni, ma io dico che è assurdo. Grazie a Paolo De Chiesa, ex sciatore, professionista e giornalista. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ucraina, c'è stata una telefonata tra Obama e il presidente cinese Xi Jinping, sostegno al rispetto dell'integrità territoriale, domenica il referendum con risultato scontato per la Crimea. Il governo si rimetterà all'aula sul tema delle quote rosa, è ancora scontro in merito alla legge elettorale, lavori fermi alla Camera, secondo Forza Italia l'ipotesi è incostituzionale. 48 ore di attesa per le prime vere mosse del governo Renzi. Il presidente del Consiglio promette il taglio delle tasse nel prossimo Consiglio dei Ministri. È il momento della borsa. Borse in diretta. È una giornata positiva, FTSE MIB più 0,71%, FTSE OSHARE più 0,64%, va bene anche il resto d'Europa, se si fa eccezione per Francoforte che cede lo 0,3%. Isabella Tasso, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buongiorno e bentornata. Buongiorno. Allora, a cosa dobbiamo questi rialzi di oggi? Ma in realtà è stata una mattinata piuttosto tranquilla per le borse europee, questo mentre prosegue la stagione dei risultati di bilancio, gli investitori continuano a monitorare con attenzione l'evoluzione della crisi ucraina. C'è stata un'apertura irregolare, dopo le borse europee si sono portate per lo più in territorio positivo, questo malgrado l'inatteso calo registrato a febbraio dall'export cinese, che non è un segnale incoraggiante per la seconda economia mondiale. Titoli da segnalare? Ma fra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione si mette in evidenza Unicredit, che fa più 2,2 alla vigilia del Consiglio di amministrazione chiamato ad approvare il bilancio 2013 e un nuovo piano industriale. Bene anche A2A più 4%, bene anche Fiat più 0,6%, questa beneficia dei dati sulle immatricolazioni in Brasile. Perde invece ancora terreno Buzzi Unice, meno 1,9%, questa è ancora sotto pressione a causa dell'esposizione verso Russia e Ucraina. Grazie Isabella Tasso anche per oggi, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E vogliamo tornare adesso alla politica e al tema delle quote rosa nelle liste per la legge elettorale. Tema sul quale al momento la cosa si sta arenando, la legge elettorale, dalle indiscrezioni che circolano, il governo avrebbe deciso di rimettersi all'aula. Io saluto Fabrizia Giuliani, deputata del Partito Democratico, che fa parte tra l'altro della Commissione Giustizia. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, io le confesso che ho qualche dubbio su questa questione delle quote rosa. Le leggo dei dati che ho tirato giù stamattina. Nel 2006 le donne rappresentate alla Camera, le donne alla Camera dei Deputati erano il 17,3%, nel 2008 il 21,1%, nel 2013, quindi nell'attuale legislatura, il 31,4%. Allora, a fronte di una tendenza così ascendente, che bisogno c'è di fare le quote rosa? Allora, la prima questione che le contesto è il termine stesso. Quella battaglia per la democrazia paritaria non è una battaglia di tutele, di garanzie, di posti riservati, per capirci. Quella, la questione delle quote, attiene alle battaglie delle minoranze, delle piccole comunità, questioni linguistiche, eccetera. Dire, come noi stiamo cercando di dire in questi emendamenti, che nessuno dei due generi può prevalere sull'altro nelle posizioni di eleggibilità, vuol dire cercare un punto di equilibrio, di aggiornamento, mi verrebbe da dire, della rappresentanza, che ci consenta di non arretrare, lei ha appena ricordato questi dati, nel panorama europeo. Le ricordo infatti che gli standard che avevamo raggiunto prima del 2013 non erano standard europei, no, eravamo, credo, eravamo intorno al 74esimo posto, se non vado errato, comunque sì, insomma piuttosto in basso, sì, nelle classifiche della rappresentanza politica. E è stato soltanto lo sforzo che hanno fatto alcuni partiti, e non voglio assolutamente portare acqua alla mia forza politica, questa sì, è una battaglia assolutamente trasversale. Dico però che se non avessimo avuto occhio, ecco, che non è affare di quote, avere occhio a tenere un equilibrio nelle liste, a cominciare sì, dalle primarie che abbiamo fatto, diciamo così, per natura questo riequilibrio non si verifica, ecco, per una serie di ragioni che non hanno a che vedere, senta, naturalmente solo, senta, con sì dica, ci, dica, sono, ecco, ci sono dei casi, ci sono dei casi di grande successo da questo punto sì, di vista, basati sulla scelta volontaria dei partiti. Penso per esempio ai paesi del nord Europa, dove, sì, certo, dove certo, si è fatto quello che sostanzialmente ha fatto anche il Partito Democratico, esatto, impostando una sorta di meccanismo concorrenziale, per cui certo, anche solo certo, banalmente per prendere certo. i voti delle donne si mette un numero pari di donne e uomini all'interno delle liste. Allora, perché non procedere attraverso appunto un'operazione volontaria che stimoli la concorrenza tra i partiti invece Io credo che una questione, lei ha ragione, io sono d'accordo con lei, la questione, però mi permetto anche di dire che una cosa non esclude l'altra. Mi spiego, è stato questo diciamo questo meccanismo che noi abbiamo adottato all'interno del Partito Democratico a sollecitare anche le altre forze politiche, però è anche vero che chi legifera come facciamo noi ha anche il dovere di applicare il dettato costituzionale, i valori che sorreggono la vita della democrazia, e quindi porre questo tema vuol dire anche vincere quelle resistenze corporative, perché se non si chiude un accordo vuol dire che ci sono delle resistenze, no? Se è tutto così semplice, così pacifico, allora per quale ragione incontriamo tutte queste resistenze che sappiamo essere anche abbastanza trasversali, ecco, altrimenti l'accordo si sarebbe già chiuso. Le rovescio un po' la questione: non è sufficiente una misura, le misure del genere adottate solo dai cosiddetti corpi intermedi, dai partiti, eccetera. È molto importante che questioni come queste, che ripeto, non è un modo per bypassare il merito. Guarda, io sono uno docente universitario, peraltro credo nel merito, sì. credo nel merito come proprio principio cardine della democrazia. Ma la democrazia vuol dire rimuovere gli ostacoli che impediscono al merito di affermarsi. Guardi, un esempio lampante: un presidente il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, è una figura che anche frutto di queste soluzioni non ce l'avrebbe fatta. Non so se mi spiego. Sì, io capisco, Giuliani. Allora, dobbiamo chiudere. Le do un dato, però: negli Stati Uniti le parlamentari donne sono il 18,3%, cioè, però insomma, comunque capisco il ragionamento, abbiamo ospitato questa opinione, magari nei prossimi giorni ne ospiteremo anche delle altre, perché è una battaglia trasversale, non solo il PD la sta facendo, ma ci sono anche deputate del Nuovo Centrodestra, di Forza Italia e non solo. C'è oggi, come ogni lunedì, l'inchiesta di Daniele Biacchessi. Ritorniamo in Ucraina e parliamo di nuove destre. Pravi Sector, settori di destra, è il gruppo che ha organizzato l'insurrezione di Kiev. Sono ultranazionalisti, antirussi, antisemiti, si rifanno al nazismo, alla legione di ferro di Corneliu Zelea Codreanu, il leader rumeno che ha ispirato l'azione di molti gruppi della nuova destra dagli anni 50 ad oggi. Questa banda è formata da circa 5.000 persone, guidate da un certo Dmytro Yaros, leader assoluto e incontestato. È organizzata in piccole cellule paramilitari composte da 10-15 persone, di cui il più vecchio può avere non più di 30 anni. Ogni cellula si muove in modo indipendente una dall'altra, sono tutte compartimentate, rigide, ma vengono dirette da un'unica regia occulta. I militanti di Pravi Sector si sono presentati d'improvviso nei cortei nella piazza Maidan di Kiev con cappucci neri, calci di pistole ben in vista che sporgevano da enormi cinturoni stile cowboy del vecchio West. La maggior parte della folla che riempie la piazza di Kiev certamente non li ha mai amati, ma loro colpivano e svanivano nel nulla. Arrivavano nei punti giusti della città lanciando sassi, bottiglie Molotov, ingaggiavano scontri durissimi con gli agenti speciali della polizia e poi si mischiavano nel corteo. Tra loro ha operato anche un gruppo di tiratori scelti con carabine di precisione che ha ucciso e ferito in questi mesi alcuni agenti. Pravi Sector oggi gode di enormi protezioni politiche ed economiche. I suoi militanti sono associati alle forze del Ministero dell'Interno del governo rivoluzionario di Kiev, incaricati cioè di pattugliare e controllare la piazza come una sorta di milizia popolare con licenza di violenza controllata pur di mantenere l'ordine. La crescita dell'estrema destra in Ucraina è stata usata dalla Russia per legittimare il suo intervento in Crimea. E alla Russia Yaros risponde così nei tanti incontri con la stampa. Per tutti gli anni di indipendenza dell'Ucraina, la Russia ha perseguito una sistematica politica mirata di sottomissione. Così naturalmente ci prepareremo per un conflitto con loro. Prima o poi siamo condannati ad una guerra con l'impero di Mosca.